via. Vero? Io commento sempre acuto, l'acuto si vede dalla foto del cuoco, è tutto. Vabbè, su, mi faccio vedere di che. Posso parlare di questi spiccioli? Luca, sei tu cocco? Non c'entra, tu c'hai un cane cocco, anche tuo marito è cocco, ecco. Ecco. Mi sono distratto. Non sto addormentare come qualcuno al microfono, mi guarda a te. Mi sto addormentando. Che tu sei giovane e fresco e vegeto. Qualcuno si addormentava. Lo so, però ho fatto notte in bianco che stavo facendo ascolto. Ok, dai, vediamo un pochettino su 10 se c'è qualche appassionato. Se vuole entrare, se lo riprendi tu o Luca o Natalina. Non ve nessuno, dai. Ok, quindi Natali, c'è la digitale terrestre e tutti dinni, lascia perdere, no? Così non ti vattani il cervello, anche se da dire il satellite è tutta un'altra musica come qualità video, non c'è confronto con digitale terrestre, non c'è interruzioni, non c'è niente, il segnale è sempre stabile, pulito, non ci sono imperfezioni. Infatti se ti guardi una partita, io ho sempre guardato da tanti anni solo digitale terrestre, solo satellite, non ho messo l'antenna digitale terrestre, ma ce l'ho per opzione, ma sempre in cosa, in satellite io ho guardato i canali. Lo so, anch'io lo vedevo il satellite, mi guardavo quello di caccia e pesca. E purtroppo mi dispiace, ma se non prende questa parabola lo so il busto va. No, ma io pensavo che tu non avessi, che avessi problemi di digitale terrestre, a quel punto si mette la parabola e se ne toglie tutti i problemi. Invece no, se ce l'hai tutti i dinni rimane con digitale terrestre, boh. Se pure è debole gli metto una bella antenna ad alte prestazioni, un amplificatorino per aumentarti un po' il guadagno e poi vedi che funziona. Ah no, io problemi non ne ho col digitale terrestre, la mia antenna è perfetta. Io ho messo un amplificatore come si deve e ricevo tutti i canali bene. Poi c'ho una TV smart, se voglio io ci metto la cam e la scheda e vedo il satellite, perché c'ha anche l'attacco del satellite il mio televisore, capito? Ma se non va la parabola non vedi nulla. Dimmi una cosa, adesso ho perso il filo, sto facendo un'altra cosa. Cosa c'hai tu, l'antenna miscelata? Due antenne, c'è un'unica antenna? No, due antenne. Quella del primo e quella del secondo, il digitale terrestre però io gli ho messo quelle nuove, infatti avevo pagato una vacca di dinà, però vedo bene tutti i segnali perché c'era un'antenna spina di pesce qua in facciata e vedevamo con quella, solo che da voi non so cosa è successo e mi ho messo l'antenna sul tetto di quelli là. Non funzionava più. Ho rotta siera, è praticata borsesina. E allora ho comprato le antenne digitali terrestre, solo che sul tetto io non ci posso salire, l'ho messa sul tetto degli altri, di quelli che disturbomi, e sul palo di quello che disturbavo, non lo so se lo disturbo ancora, perché un tecnico è salito a piazzare un'antenna ieri, no? Non l'ho vista per niente oggi il fotografo. Meglio che non rovei, non parlare con nessuno. Si diceva intanto miscelato, dai, sempre la soluzione migliore, anche se tra poco quel coso, il VHF viene chiuso qua, le frequenze VHF verranno eliminate, utilizzeranno solo le U, per il coso, allora, perché tutto è in HD, ormai il VHF viene utilizzato solo per i canali standard, come si chiama, definizione, e boh. Poi ti metti una, successivamente basterà solo un'antenna come quelle che hai tutto con le IACI messa in verticale per le U e per il momento poi utilizzare, vabbè lascia stare, non tocca nuda, va bene così, poi eventualmente tanto quando chiudono quel canale c'è sempre l'altra antenna per le U. E io le ho comprate proprio quelle moderne del digitale terrestre, avevo preso. Io non c'ho quelle antenne vecchie, capito? Io ho messo l'amplificatore e l'alimentatore, ce l'ho qua. E prende benissimo. Poi quando cambiano canale, fanno lo split, cosa si dice? Non lo vediamo, perché perché la televisione mia è predisposta, l'ho comprata da poco. sì, tutte le televisioni costruite dopo il 2017 sono già predisposte per il T2, eccetera. Però ce l'hai l'antenna per le V a pannello, ce l'hai o come? Come? L'antenna per le V, per le VHF, è a pannello o cosa, classica direttiva? Pannello, non lo so se è a pannello, boh. Allora io ho giubilato un primo secondo per il digitale terrestre. Una è grossa, ha tante sezioni, infatti prima gliele ho montate io queste antenne, no? E poi le ho date a questo albanese che me le ha piazzate nel suo palo, perché io sul tetto mio non ci potevo salire, ma ha lanciato il cavo ed io ho aggiubato tutto e vedo benissimo. Ah, scusate, mi ha detto albanese, perché c'è un albanese qui? C'era un albanese nel palazzo dove, come inquilino, no? Questo qui adesso se n'è andato, però è lui che mi ha piazzato le antenne diversi anni fa, e poi l'altro ieri ho preso e ho fatto le fotografie come che sono su quel tetto le mie antenne. Capito? Io ho tantissimi amici albanesi, ma tanti, un sacco di gente. Ok, non lo sapevo che ci fosse qua albanese a Sassa. E qua c'era, abitava lì, in quel palazzo. Meglio lui. Break? Sì, avanti break. Però quello era un signore, capito? C'è stato un break, facciamolo entrare. Sì, buonasera, ciao Franco. Un'informazione. Natalini, com'è andata a finire poi quella questione? Te l'hanno tagliata o no? No, non hanno tagliato proprio nulla. Hanno cambiato, è salito un tecnico, ha cambiato un'antenna di loro, quella Iaggi ha cambiato. L'età di bianco per me, vengo subito, dai, ossia se non possono rimanere. Di nuovo sicuramente, perché se il disturbo è quello avrà collegato le antenne a un amplificatore nuovo, gli avrà cambiato i cavi e tutto. Io l'ho visto da giù perché stavo tentando a vedere se toccava le mie non le hanno toccate, ma deve essere che non riconvenga. Gliel'aveva detto il tecnico stesso. Quelli sono invece già cambiato l'antenna, sono quelli che detto che si lamentavano. Roberto, credo che sia lontanato. Ti ascolto basso, Gianfranco. Sì, possibilissimo, perché ho sostituito un alimentatore. Aspetta, no, non fa neanche con gli occhiali, perché è un pulsantino talmente piccolo, un attimino che cerco una luce. Prova a vedere un po', perché ti ascolto basso. Ecco, guarda, adesso sempre basso. Ah no, basso di segnale forse, cioè non credo, aspetta, cambia antenna. Basso di segnale. Sì, c'avevo già. No, c'era l'antenna, era in orizzontale, capito? Perché lo stavo provando un HF. Come va adesso? Va bene, sì, è troppo alta la radio. Ah, no, adesso già sei tu. Prima in orizzontale è anche un po' direttiva, quindi poi faccio una prova, già ci sono, quindi tutto bene, quel che finisce bene. Io ho visto che le antenne le hanno lasciate, ho fatto le fotografie io ieri mattina presto col teleobiettivo, in modo che ho la prova che le antenne erano lì, capito? Vabbè, non c'è problema. Ma ho comprato il decoder e la parabola non piglia il satellite, non siamo riusciti a fargli prendere il satellite, Gianfranco, un macello. Vabbè, di lì sono millimetri, sia in altezza sia in direzione. Lo sai, no, le parabole sono molto, per essere una cosa molto precisa. Lo sto combinando io. Lo so che sono precise, Gianfranco, purtroppo non siamo riusciti a farli prendere autobus perché c'ho anche un ricevitore, m'ho preso satellitare, almeno se mi tagliavano il cavo o facevano qualcosa che non dovevano fare la vedevo ugualmente la televisione, capito? Invece non è andata bene la situazione. Ah, è vero. Vecchiaia. Ho fatto quando sono c'è collegamento. Sì, importanti sono due parametri. Il parametro essenziale è se vedi il cielo. Quindi Ottobeard era, allora dov'era? Non me lo ricordo più. A est 30-30 sì, una cosa del genere. Com'era Astra, quello può. 13 gradi est mi sembra che sia. Sì, probabile. Ma guarda, basta anche una bussola. Tu hai provato, hai guardato se il tratto di cielo dove si fa problemi, perché poi alla fine la direzione è abbastanza bassa, quindi se c'è qualche palazzo un po' alto davanti magari è molto difficile prenderla. E il problema deve essere il palazzo di fronte, dai, che è troppo vicino. Quella è roba che va sul tetto. Se c'è quella roba davanti, inizia a diventare in salita, perché l'inclinazione non è che sia così alta come molti pensano, è molto bassa. Quindi se c'è già un palazzo a distanza di qualche ventina di metri, sono dolori. E anche di meno di 20 metri, molto di meno. Prima di prendere tutto non te ne sei accorto che c'era questo imbarazzo in mezzo ai piedi. E certo che me ne sono accorto, ma io non me ne intendevo di parabole di questo e di quell'altro. È venuto Antonello, è venuto Fabio con gli strumenti e tutti, non bisogna decidere di nessuno di rimanere. Hanno iniziato dal contrario. Eppure dovrebbero sapere la prima cosa da guardare è il cielo, se è campo libero, se no a quelle frequenze neanche a balla proprio. E molti tocca trovarti un altro posto. E sul tetto non ci posso salire già, se no me l'avrei piazzata lì. Sul torrino dove si esce per andare al tetto l'avrei piazzata. A mano, senza gosola, perché io in campagna mi ricordo che l'ho chiazzata subito, ha preso il segnale, via. Addirittura ne avevo due illuminatori, pigliavo sia Astra che Ottobeard. Però è tutto libero. Guarda, è relativamente facile, la cosa che ti serve è il sintonizzatore, cioè quindi il codice, se è già programmato, quindi lo dai a qualcuno che c'ha la parabola, ti fa cercare tutti i canali, dopo il tetto lo porti a casa e fai, e non devi fare altro che puntare l'antenna, e da lì non si scappa, solo che se non puoi salire su. E sul tetto no, che se metto il piede sul tetto e rompo qualcosa mi fanno pagare tutto il tetto, che è tutto marcio, lo devono aggiustare e quindi io non ci metto piedi, assolutamente. Se mi è piazzato l'antenna del baracchino in facciata, abbiamo fatto una fatica enorme per piazzarla e siamo riusciti a farlo uscire un metro il tubo dal tetto. Questa antenna, infatti ho problemi di ricezione perché è troppo basso. Ma il torino com'è? Cos'è? È per l'accedere al tetto questo torino? Eia, si esce dall'appartamento di quella del terzo piano, capito? Quindi devi sempre chiedere il permesso a qualcuno, va? Oltretutto bisogna chiedere il permesso a quella lì. E la sedia di malempeggio. Qua, meglio la morte. Insomma, non ci c'è pace. E infatti. Ma tu non sei, a che piano sei? Sei in basso, diciamo? Primo piano. È bello per la vecchiaia, ma brutto per quei lavori lì. E infatti. Anche se poi le scale fanno bene. Chi è abituato a fare le scale riesce poi anche a respirare meglio, fa allenamento. Ehi, già lo so. Per me. Sì, chi è? Avanti. Ciao Gianfranco, Alfa 21 a questa parte. Ciao Riccardino, buonasera. C'era, sono io, c'è Natalino e fino a poco fa c'era anche Roberto, e poi ho sentito che già mi sto allontanando. Riccardi, ti sento a tratti però, perché dai l'impressione che prima premi il prima parli e poi premi il microfono, quindi ti strappa la prima parte della frase, quindi prima premi e poi parla, così riusciamo a capire. Ti chiedo scusa, è colpa mia, me ne dimentico sempre, non ci sono abituato che devo aspettare un secondo. No, comunque ero sempre qui, lo so che c'era Natalino, c'è sempre Natalino, tu e Roberto che è andato via da un po'. Va bene, ritorno dopo, spero di ascoltarmi, saluto. Ciao Natalino, ciao Gianfranco e a Roberto se in ascolto e anche a tutti gli altri eventuali ascoltoni, a dopo. Ciao Riccardi, a dopo, dai. Ok, ciao Riccardino, a dopo. Quindi Giorgio ha fatto una spesa inutile a farli. Perché chi poteva pensare che non riusciamo a beccare Ottobir? Vabbè. Sergio di telefonata, Natali disse se te lo possono spostare perché c'è un palazzo davanti. E te lo fa mettere proprio in verticale il satellite, così almeno appunti in verticale l'antenna si è a posto. Ma ringrazio Dio che mi abbiamo lasciato le antenne del digitale terrestre, da la televisione la sto vedendo ugualmente. Tu come sei rispetto a Monteodoro? Ugualmente coperto dal basso, vero? E allora, ho dovuto mettere l'amplificatore, se no il segnale. Se io tolgo la corrente al, come si chiama, all'alimentatore, non arrivi più segnale. È basso. Addirittura. Io non capito ancora dove sei nato lì. Sei... No, avevi detto, tutto aspetta, non vorrei confondere, perché io ho anche un collega che abita in quella zona, aspetta, in via Rosello, dove c'è Gasperini, dove c'è o c'era, non so se sta ancora Gasperini. Ah, ho corso Trinità. Ah, quindi preso fischi per fiaschi, in corso Trinità, dove c'è la chiesa, la chiesa di Corso Trinità, e però non mi ricordo il nome. E manco io, comunque sono più giù della chiesa, sono all'altezza del tabacchino, c'era il tabacchino prima lì sulla sinistra, adesso è sulla destra, io dopo il tabacchino c'è il mio vico. Ah, non sei lato chiesa quindi, perché dici che scendendo più giù dove c'è quello dei mobili, giù, adesso non mi viene neanche il nome di quello, sono tutti palazzi alti, tu evidentemente sei sul lato opposto alla chiesa, dove c'è l'edicola, di lì c'era anche il mio barbiere, che probabilmente non esiste più, poveretto, sarà anche morto. Oh, sono lato chiesa, adesso il tabacchino l'hanno spostato, non è più sulla sinistra scendendo, è sulla destra, e io sono dopo il tabacchino, appena dopo il tabacchino c'è il mio vicolo, capito? E c'era un altro negozio prima, adesso hanno messo il tabacchino lì, lato chiesa. quindi dovresti essere da faccia anche quello che manda le cartucce, l'armeria. E lì era. Sono prima della, di dove c'era l'armeria. Di pro... Ho capito. Ho capito. E il sì, beh, insomma, a quanto sono tre piani, perché di fronte sono più bassi, credo, perlomeno sto andando a memoria, perché ci passo anche raramente oramai lì. E figurati. Comunque sono di fronte alla via San Donato, di fronte sono. Di lì poi sono vie strette, quindi anche se devi fare qualche lavoro, secondo cosa devi usare, non c'entra neanche un furgone. Ah, il furgone già entra nel mio piccolo. Il furgone già entra, che ne sono entrati parecchi. Però non c'è posticcio in tutta quella zona. Ci sono solo quelle piazzette lì dove ci sono quei... non sono abitazioni, credo. Io vi confermo sempre uno dei capannoni, forse una volta erano capannoni. Oh. Non ti so dire. Io ci sono 10 anni solo qua. Quindi 10 anni? Ma tu l'hai conosciuto il barbiere che c'è sul lato opposto, era vicino all'edicola, se non ricordo male, c'era un barbiere. Più su era, mi sa, il barbiere. Di fronte alla chiesa. Beh, lo so, diciamo, perché era il mio barbiere quando ero bambino. E quindi mi ricordo che di fronte c'era la chiesa, e andavamo lì. Cappa. Sì, togliaia. Sì, basta chiedere a Maria e ti sa dire, vita e miracoli. Vita, morte e miracoli. Altro che la Nuova Sardegna. Io ti sto parlando all'incirca di 1 o 2 milioni di capelli fa, infatti. Sei di bambino. Adesso anche quelli sono andati, sono divorziato, quindi, e loro sono andati per la loro strada. Oh, io sono rimasto cavallo barbiere, non ci vado più. Allora fai molta luce, Gianfra. Non molto, perché poi alla fine qualche peluzzo c'è sempre, sai com'è, tipo barba, quindi non è proprio luminoso. E allora già si è andato bene. Se ne poteva andare alla barba a rimanere i capelli, avrei preferito. Perché poi quando sei in casa non ti dice nemmeno la farla sembra un barbone. Infatti, catta, poi a me mi è venuto tra capo e collo questo dolore, perché quando sono andato a comprare il ricevitore ho fatto molta strada, la sera anche la schiena mi faceva male, il ginocchio, guarda. Meglio la morte a questo punto. Sì, non esagerare, Napoli. Non esagerare. Che gente giovane se n'è andata anche troppa con questa... tra incidenti, malattie, una cosa e l'altra, per carità. Meglio finché si può rimanere qua. Poi se mi parli di dolori, anch'io ogni tanto a momenti strappo, perché mi sta prendendo un dolore alla caviglia, quindi riesco a capire, ad esempio, che domani sicuramente il tempo è molto brutto, perché sono questi sbalzi in temperatura, mi fregano sempre, e quando è così la caviglia mi fa male il cane e a volte non mi regge. E me lo fa soprattutto quando sono in pausa, perché non vado in bici, cosa strana, no? Quando non vado in bici, evidentemente lì si raffredda troppo e ho questi dolori, con il rischio di cadere la faccia a terra pure. Mamma mia. non c'è altra cosa brutta che la caduta in bicicletta, perché ti vai nuovo ti fai. A me mi è venuto anche questo dolore al ginocchio, deve cambiare il tempo sicuramente. Domani c'è temporale, te lo sto dicendo. Pure quello ci vuole. Sì, domani è temporale. Stamattina ha fatto un poco di pioggia qua, tutte e due gocce. Poi la sera col vento un po' gelido, e adesso non si sa cosa voglia fare, ma stavolta penso che rinizi l'acqua. Sì, i dolori, sì, poi quello alla caviglia è micidiale, ma speriamo che così come è venuto se ne vada. A me mi viene un dolore al polpaccio, mi viene, come mi tira un nervo, come che mi tira un nervo, un dolore, infatti devo avere l'ernia del disco io, perché me l'ha detto un amico che è come me, uguale, come fai un paio di metri subito, cosa ti posso dire, una cinquantina di metri, mi viene questo dolore alla gamba che non posso stare, ma dolore mi... Chi è quella? Vabbè, dai, Samira. Detto questo ti lascio, Gianfra, che me ne vado a coricarmi, perché qua sono a pizzi. Va bene, buon riposo allora, copriti, perché stanotte cala anche parecchio la temperatura, mi sa. E buona serata e buona cena se ancora non l'hai fatta. Anch'io mi ritiro e niente, chiudo tutto, finestre, finestrine e cose varie. Alle prossime, buona serata Natalia, buona serata anche agli eventuali che sono in ascolto. Ok, ciao, buon proseguo, quereti per me. Ciao Natalia. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo, a domani, io sto andando a riposare, sono già alle 9, ciao. Ciao. Avanti. Riccardino! Yeah. Non mi chiamo Lucchetta, mi chiamo Luca. Fasa. Attenzione canale 10, c'è rimasto qualcuno? Ciao Riccardo. Capri, che radio stai usando? Sempre la mia. Ah, cappa, stai uscendo male. No, sento sempre male. Esatto, che Fabrizio. Molto meglio, comunque adesso sei 9:20 radio 5, va bene. C'è del carro un po' spostato. Adesso vai invece. No, vado meglio o non vado? No, vai meglio. Va bene. Quindi sto lavorando su quella radio, un po' di difetti li ho tolti. È un macello, è un casino, eh. Adesso gli è rimasto quel difetto che tu li chiami splatter, ma c'è un problema da qualche parte. Ma c'è ancora il problema che si interrompe? No, quello l'ho messo a posto, ho trovato un po' di difetti e un po' di cose. Quello ci ho lavorato, adesso ho cambiato un condensatore sulla scheda perché era partito. C'è un problema sulla scheda IF, sulla parte di demodulazione, però le tensioni mi tornano tutte lì, però è lì il problema, perché sono in AM, l'ho fatto. È come che i sistemi hanno un disturbo all'interno, non lo so. Vabbè, ci tiro un'altra occhiattina, per il resto adesso sto erogando tutto, ho trovato altre 3-4 magagne, adesso ho sollevato la scheda per vedere sotto, le devo saldare alcune cose e anche lì ci avevano già lavorato. E papà, tutti che l'avranno toccata quella radio, poveraccia, gli avranno fatto un sacco di lavori e mi hai detto anche saldatura schifo. con il codo ho cambiato anche altro connettore, ho visto quelle foto, quel cablaggio, ho rifatto un po', adesso forse ho messo un giorno un altro piattino, un'altra mezz'oretta, ancora molto, poi la riprenderò mai. Perché vorrei riuscire a trovare questo difetto, che più o meno lo so dov'è, ma non così, da un po' più di tanto. Vediamo, dai, perché come non sono come tu dichiari, c'è un qualcosa sulla parte di demodulazione della partita M, qualcosa in perdita c'è, cioè, tanti di odi rivelato, ma non è lì tu. Va bene, dai, riprendi, mi sa che c'è anche Luca, ciao Luca. Ci sono e non ci sono, mi sto facendo orario per fare la puntura alla vecchia. Capito, va bene, io rimango in ascolto. Comunque non so se ti ho salutato, ciao Fabrizio, forse sì prima. Mi sto guardando tutti quei video che hai messo, me li sto ricontrollando. Per capire che c'è un sacco di cosucce. Adesso forse le faccio vedere. Va bene, dai, vedo un attimino. Ci c'è un'altra scheda, ho provato, quella va bene, però c'è un problema, dovrei dare un'altra occhiata alla fine. Vedo qua, dai, cosa si riesca a trovarlo, non lo sto trovando, cioè ho individuato, la zona l'ho individuata, ma non sto trovando nessun componente in perdita. Boh, vabbè, grazie Fabri, comunque, fammi sapere. Vabbè, comunque, andare adesso sta andando, se non c'è qualche altra cosa nel frattempo, sta andando la radio, è solo questo problema in AM, che quello che te dici, che ti giri e senti sempre parlare, no? Quello lì, e poi hai disturbi e quel problemino, dai. Va bene, non c'è problema, se ci sono problemi va bene anche così. Va bene, dai, ti mangi in ascolto. Sono ben entrato. Ciao Robè, è entrato Fabrizio. Era sentito per un attimino. Ciao Fabri, mi hai sentito di sfuggita. E poi che ci... c'è Luca. Ma perché manca di modulazione Robè? Come si chiama Riccardo? Ho capito cosa hai detto Lu. Ho detto perché manca di modulazione. Allora, lo sai cos'è? C'ha una frazione di secondo quell'apparecchio. Lui parla troppo veloce, non gli dà il tempo di cose. Infatti ho detto, quando schiacci il PTT, prima di parlare aspetta un secondo, così non ti taglia le parole. Ma come mai? Non lo so, mi hanno detto che è una caratteristica di quella radio. Chiediamo a Fabrizio, che lui è più esperto. Possibile, Fabrizio? Che cosa? Che è leggermente in ritardo di un secondo, quando lui schiaccia la portante, siccome Riccardino appena schiaccia il PTT parla immediatamente, non dà neanche il respiro, gli taglia un pezzo della parola. Io le faccio, ho detto schiaccia il PTT, aspetta un mezzo secondo e poi parli. Dice che mi hanno detto, io non so se sia vero, che è una caratteristica di quel tipo di radio. Un po' tutte sono, c'è un relay, il relay deve scattare un relay che ci mette il tempo che ci mette per commutare, no? Quindi sì, quando schiacci parla anche subito, non per praticamente inizia a parlare col prima, cioè praticamente inizia a parlare nello stesso tempo schiaccia il PTT e quindi in qualche secondo, invece schiaccia un secondino, in qualche millisecondo prima di parlare. C'è un relay normale, però non è che sia in ritardo, è un relay, quindi a me non mi è capitato, vuol dire che schiaccio prima. Va bene, mentre c'è una roba quella radio, ho fatto questa mano, un sacco di difetti li ho già eliminato, ma ce n'è, lasciamo per come le diciamo. Ma è che disallineata era per caso? No, c'entra niente disallineata, c'erano un sacco di cablaggi, ho dovuto vedere una marea, si è scritto qualche condensato, poi vabbè sostituito, vabbè quello lì vabbè era quel cavolo di commutatori, vabbè quello non era, quindi mi sono riuscito a ridare il display, le tensioni le ho rimesse a posto. Poi c'è quel problema in AM, è un problema sulla parte di demodulazione del demodulatore, però sono andato a controllare lì, tanto i valori ce li ho più o meno tutti a posto, quindi pensavo di trovare qualche cosa in perdita, perché lì comunque in AM, in FM va bene, in banda laterale va bene, solo la parte del demodulatore, no, c'è qualcosa, però non riesco a trovare, che è piccola la parte dove fa la controllazione, non ho trovato niente in perdita. che spinge bene, si dà qualche watt in più, eccetera eccetera. Anche però lì poi li farai il giusto, le giuste manutenzioni, ritornerà in auge come nuovo. A posto, questo adesso va bene. Del resto più o meno stanno, il problema è che c'è troppa roba di vecchiaia dentro, quindi un paio di volte ho messo a posto e mi ha dato problemi, ho trovato un sacco di cavettini da risaldare, da fare. Il problema è che io ho una scheda in mano che la sto sollevando per fare il controllo, ma ancora che in un momento all'altro succede una pizzeria di questi cablaggi vecchi. Il problema è quello, la mia paura è quella. Poi c'è questa parte qua che non sto trovando dove inserita già troppe, e che ci ho già messo un saccaccio di tempo sopra, perché sembrava come sempre, io rimango in ascolto che tra un po' dovrò uscire, però un'altra mezz'oretta gliela dedico. Ok, va bene Fabrizio, vai Riccardo. Va bene, grazie di tutto l'aiuto Fabri, comunque. E di nuovo ti ha fregato Riccardo, non parlare subito, aspetta mezzo secondo. Scusatemi, me ne dimentico sempre, perché non mi era mai successo in questa radio, non ce l'ho neanche da tanto questa, e me ne dimentico, perché sono abituato a schiacciare e parlare nello stesso momento. E adesso tanto non succede niente, una frazione di secondo, fatta appena appena, schiacci il PTT e prendi un respiro e poi va. Eia, va bene. Così va bene, perché non è un difetto, però si può correggere, nel senso una cosettina normale, basta aspettare un pochettino. Sì, adesso che me lo ricordo che sto usando sempre questa radio, me lo posso ricordare, perché come ho detto non avevo mai avuto radio così. Eccola, niente, aspetta un po' quando avrai cose molto, molto più sofisticate e più performanti. Piano piano tutto si fa. Ok, la passione ce l'hai, per cui non c'è niente da dire. Luca Riello, avanti a... scusate un attimo, vabbè, sto facendo roba qua. Fai. C'è qualche donato qua sul canale 10? Comunque stavo ringraziando a Fabrizio tutto il tempo che ci ha messo su quella radio. Grazie Fabrizio, sei ancora all'ascolto. Va bene. Un grande Fabrizio, anche se sta ascoltando già lo sa lui, non c'è bisogno di dirlo, allora non ci sono problemi. Ho visto che c'ha Fabrizio, una conoscenza comune abbiamo, non lo sapevo, e poi non sapevo che avevi dei fratelli pure. Sì, non sono figlio unico. Abita proprio di fronte a casa mia, è arrivato dopo di me una trentina d'anni, credo, almeno ne ho qui, una trentina d'anni fa è arrivato. Abita proprio a di fronte proprio, sta davanti la via di fronte a noi. Dove abita? Lui abita a Sant'Orsola, forse prima abitava a Sant'Orsola, parlo, io abitavo a Sant'Orsola da ragazzo, c'è anche un appartamento lì, io abitavo lì a Sant'Orsola, dove vado sempre, no? Dove c'è i garage, dove c'ho lì, sto sempre lì, in genere, no? Da mamma. Abita proprio lì a quanto sarà, a 10 metri. Ah, io pensavo ti riferissi che lui abitasse in via dove abiti tu, dove abiti attualmente adesso, e poi se n'è andato a Sant'Orsola. No. Ok, tutto comprendo. Ok, Riccardo, facci sognare. Mi faccio sognare, mi sto un attimo coprendo che mi sono fatto un tuffo 5 minuti prima che entrassi tu. Un tuffo? A questo? È in piscina. E cazzo, c'è freschetto adesso, copriti bene, soprattutto la testa, se c'hai i capelli bagnati. No, ormai ho i capelli corti, fra un po' divento palastro, non c'è problema. Chi è che ha detto mettiti la cuffia? Non l'ho conosciuto. Ma Gianni, ha detto Gianni, ti sento bassino. Ciao Cinco, ho capito, vero il tuo nominativo? Ah, ho capito, nipote di coso, di Tonino Cavasacchi, Manuele, così, confermo. Non è che è così bassino, anche da una sera. Ah, c'è un'antennina piccola, perché una volta la veloce arrivano un po' più fuori. Ah, scusa un po', l'altro giorno ti ascoltavo molto forte, eri oltre 9 come segnale. Adesso c'è Santiago, sì, però radio 2, certi momenti 3, è quasi poco comprensibile. Ti tiro dal fuoco perché anche oggi ho il QRM molto basso, se no qualche giorno fa non avrei mai potuto avere modo di tirarti fuori. Emanuele. Ma tu l'ascolti bene, Riccardo? non ho capito, Roberto. Tu lo tiri fuori bene a Jinx? Sì, Jinx, sta andando benissimo. Il segnale è basso, però la radio è ottima, è Super 5. Tu sei aperto, quelle zone lì sei molto, molto più aperto di me, ce l'hai di fronte. Sei molto più in alto, per cui riesci a riceverli molto meglio. Dai. Ok, Capri, oggi si è sentito che volevo ascoltare quella famosa modulazione? No, Capri non si è fatto sentire, lo dovevo anche chiamare e ancora il telefono staccato, è praticamente fuori dal mondo ancora. Giovanni Bracco, niente. Giovanni Bracco, mi sa che è fuori sede. Ehi, ma la roba che ti ha dato, dove te l'ha data? Sei andato tu nel suo garage? Yes, positivo, sono andato nel suo mitico garage. Nel coso degli orrori, nella stanza degli orrori, così è. Già lo so che è un po' Natale agli orrori quello. Sto scherzando, è una bella persona, è una persona molto generosa, se ti serve qualcosa lui ti può aiutare, ti aiuta sicuramente, e non è tipo che lo fa per soldi, è per quello che è in gamba. Io lo conosco una vita, quell'uomo, quando infatti viene in officina, come posso aiutarlo lo faccio ben volentieri, poi mi ha dato tante cose, lui, abbiamo fatto delle belle cose, dai, gli ho dato, si sta usando il mio baracchino, il mobico, con due microfoni, gli ho dato, usati, gli ho detto almeno esci, eccetera, perché lui c'ha un vecchio Sommer Cup, che era una massa di rumori, di ronzii, di fischi, eccetera. No, certo, quando è nato quella roba, gli ho detto, Marta, che roba che mi stai dando, meglio non me la dai, che la porto alla discarica. No, sono stato zitto, gliel'ho presa, se mi chiede anche un favore glielo potrei fare, non c'è problema. No, è bravo, è una brava persona, dai. Poi se te la ruffiana ti porta in campagna sua e ti fa mangiare un po' di susina, c'ha centinaia di alberi di susina da paura, poi non parliamo di cosa c'è di fichirindia, di altri generi di piante, nespole. A me mi ha impressionato le susine, ce n'erano a vagoni, a quintali. Immagino, noi le abbiamo proprio poche, l'hai visto un alberello. E poi c'ha un'altra stanza degli orrori molto più affascinante, che c'è un po' di roba elettronica, vintage, di attrezzature professionali, cose strane, dai, c'è un po' di tutto. Già lo si vede, sono scienziato matto, tipo Ritorno al Futuro. Ma tu lo stai dicendo scherzando, tu hai fatto degli effetti, non so se l'altro giorno tu hai ascoltato la discussione, lui ha fatto due film, ha fatto. Sì, me l'ha detto che li ha proiettati, ha fatto, già me l'ha raccontato. E lui faceva degli effetti speciali non digitali come adesso, proprio con delle cose, con delle strumentazioni, degli effetti di lampade, di scariche elettriche, guarda, fatto delle cose, e purtroppo gliele hanno rubate sia la Rai che un programma Rai, non mi ricordo se era Rai 1 o Rai 2, un programma che c'era fino all'altro giorno, sembra Gli Affari Tuoi, si chiama, parte della sigla finale è fatta con i suoi effetti, e poi Mediaset lo stesso gli ha fregato un po' di roba. Addirittura, neanche i diritti d'autore. Ciao a tutti, ciao Fabio, ben sentito. L'ha letto il messaggio? Come, Roberto? Il messaggio che ti ho mandato un paio d'ore fa, che poi tutto sbagliato, perché con quel correttore quando scrivi una parola ti dà l'altra parola, e poi mi sono accorto che era tutto scritto male. L'ha letto? No, negativo, guarda, per quel telefono ero impegnato, in realtà ero da Riccardo stasera, e poi ho dovuto correre per cenare con mamma e ho finito adesso. Infatti era quella messaggio riferito a quel fatto lì. Guarda, sta preso adesso il telefono, vediamo se mi riconosce, perché quando sono stato non mi riconosce, sono messaggi delle Cerone, eccetera, il mapping di casa di Riccardo, ecco qua, adesso ti vedo. No, niente di più, niente di importante, era soltanto una osservazione, dai, che poi si è verificata, dai. Fabio, manco acqua in bocca. Sì, gli accappa, dai, ho scherzo. Il capito ha detto, ma perché non fai così, vediamo. Dai, è divertente. Hai letto, Fabio? Sì, ho letto. Per cui a me, non per fare orecchie di porco, ma... Ma per certo, dai, cioè, era giusto uno scherzo così. Certo che proprio tu non ci potevi cascare, diciamocelo. Ma puntini puntini, dai, non diciamo altro, dai, è stata una cosa particolare, dai. Allora, quello che ho detto io, sono due messaggi, uno che ho detto prima, giusto? Tutt'uno poi è una correzione, perché la prima parola stavo scrivendo il tuo nome e mi è uscito Fa, anziché scrivere il tuo nome. È uscito Fai. Vabbè, questi correttori, mamma mia. ma poi anche sotto, poi stavo leggendo, dopo che l'ho letto, ho detto, cacchio, ma ci sono più errori, tre parole, ho scritto una più sbagliata dell'altra. Ah, via, Eric fa a posto di Dan, bellissimo. Ok, Riccardo, avanti a te il micro. Fabio avrà chiuso tutto. Cosa ha detto? Fabio poteva dire che aveva chiuso tutto, non che era andato da me, poteva, c'erano quelli che ci sono cascati, che hanno detto finalmente Fabio si è messo l'antenna, invece no. Ehi, è vero, Giulio ha chiesto il controllo e ha fatto, un controllo di Santiago di radio, si può? Sì, sì, va bene, Santiago 2, radio 5, va bene. Ecco, ho messo l'antenna, boh, e se arrivo Santiago 2. Ma se mi arrivi in fotoscala, ma che attendai questo? Ah, dammi il dubbio, perché ti ho sentito in quella frazione di secondo quando hai detto come sta arrivando, l'ho acceso proprio quel momento lì e poi infatti ho detto, ma se attacca qua mi scioglie lo Smith, cavolo, infatti ho detto, prima così valla, e poi ho guardato il segnale e ho detto, questo è un altro segnale conosciuto. Cavolo, mi capivo che è andato per le voci. Quando inizia a prendere un po' di messichezza, perché magari si inizia sempre lo stesso apparecchio, ci fa bere l'occhio con i segnali, con lo Smitter, Riccardino, secondo me può diventare pressoché fallibile, perché sta andando. Ma adesso ti ricordi il discorso di stamattina, Fabio, a riguardo della lettura delle cose, delle modulazioni? Certo, capo. Adesso io faccio una cosa, vabbè, non è che volevo tenere sempre attaccato il giocattolo, però mi fotografo tutte le modulazioni di ognuno di quelli che entrano e so che quella lì corrisponde a quella, è tipo il DNA. Già ti trovo, non ti preoccupare, tu proprio non puoi scappare, sei troppo vicino. Oh, ma ti rendi conto che quando ieri mattina mi sa, ho sentito Riccardino ed ero nella tua QTH e avevo il portatilino già con cavetto attaccato, e papà, pensi che ti rispondo, perché tante volte dalla tua QTH ho solo lo scannerino Black Jaguar e magari ascolto gli ECI, così no, capita di sentire qualche discorso, qualche volta ho sentito anche te, e invece era dico cavetto a fianco, e tu dici che metto il cavetto e lo chiamo a vedere se mi sentono da qua, no? Mi ha riconosciuto con aperto bocca, capito? Pensa tu, segnale diverso, microfono diverso, apparecchio diverso, antenna diversa, postazione diversa, mi ha riconosciuto, ho detto basta, mi ha riconosciuto, pensa tu. Orecchio di porco Riccardino, bisogna stare attenti, quello che dici è che lui c'ha l'orecchio, come si dice, tipo quello di Star Trek, che era quello, dottor, come si chiama? Dottor Spock. Che c'ha con le orecchie pronunciate. Io conoscevo un ragazzino, quando stavamo giù a Platamona, l'ho chiamato, gli ho messo io il soprannome Star Trek, perché c'aveva queste orecchie appuntite, cacchio, e se l'ha portato la grande, infatti quando tu lo chiami per nome tutti gli amici, è grande, adesso c'ha più di 30 anni adesso, c'ha 35, però l'ho visto crescere da quando aveva 5 anni, e gli ho messo io Star Trek, quando tu fai il nome di questa persona, si chiama Christian, chi sa che io, Star Trek. Ma lo sai che sono apparato senza antenna mi sei alzato lo Smitter, Rubè, avrà Smitter. A me mi è capitato con uno di quei segnali furti soliti, con l'antenna staccata, tu lo stai facendo scherzando, staccata dall'apparecchio, cioè senza antenna, stavo spostandomi per metterla in un'altra parte, cacchio sentivo questo segnale, 5, cavolo, ed era uno molto vicino a me, detto, con l'antenna staccata, cioè non è dire, ma stava forse il segnale via nell'aria, perché l'antenna stavo con la torre, lo stavo attaccando in un altro apparecchio, e riusciva a prendere Santiago 5. Cavolo, e tu qui mi arrivi Santiago 5 lo stesso, questa apparecchio addirittura non allora già l'uscita, diciamo l'ingresso della sezione RF collegata al filtro, questo è se io lo avevo fermato dentro l'apparecchio, anche staccato dal filtro, non c'è niente come antenna, capito? Ecco, ho portato, perché stava facendo una misurazione, senza la Ferrari, senza altro parlante, adesso lo stavo guardando, tanto quando parli tu si apre, è allucinante. Entro nell'aria, cacchio, faccio spegnere le luci della cosa. C'era un periodo qualcuno diceva io faccio abbassare uno presunto. Io quando era il figlio, come diceva, mio padre quando attaccava a lineare si abbassavano le luci della strada, talmente usciva forte. A me è già successo, quindi l'ho raccontato oggi al padre di Riccardino. A me è già successo che con tre fischi ho staccato 6 kg, dico altro. Sì, ma questo dice, questo era convinto veramente che il padre abbassasse le luci dalla strada, cioè prendesse corrente alla cabina elettrica. Roberto, dimmi, Riccardo, dammi risposta. Cioè, tu dicevi che non prendeva niente con quell'antenna, o così renne. Aspetta un attimino, Fabio, che leggo il messaggio di Riccardino. Campa, io pure capito. Riccardino, quell'antennino con la cospiella attaccato. Sì, di quello che stavano... Roberto stava dicendo, con quello non ascolti niente, la volta che è venuto, con quello non ascolti niente, non senti niente. Ho attaccato, sentivo le radio e altro, per non fare radio ma solo sentivo. Ehi, accanto, per la fare ti piace molto. Dicevo, Roberto, ma perché non lo provi a casa, ti metti d'accordo col centro? A vedere un attimino questo apparecchio, a fare un confronto così tranquillo, tipo una sera, lì di a fianco. Oh, sono entrato. Capo, ho parlato a vuoto allora. Visto che Riccardino c'è questo apparecchio, che a me piace moltissimo, oggi l'ho visto dal vivo, è meraviglioso, il mio tipo di apparecchio preferito. Perché non te lo porti a casa, ti metti d'accordo col Sergio, una di queste sere magari lo metti a fianco a quello che ti piace di più dei tuoi e gli fai così un confrontino, perché secondo me è più di quello che sembra. Ti ha parlato il ricevitore? Positivo. Non mi ha detto che ha attaccato l'antennino, dice c'è una buona ricezione. E infatti ti sei immaginato con le tue antenne belle tarate e collaudate, così gli fai un controllino per vedere se sui tuoi segnali si comporta meglio di come hai visto, perché a me piace troppo quella parecchia. Mi dispiacerebbe sapere che magari è un po' storto, che non si comporta bene, capito? Sì, sì, se capita volentieri, me lo porta 10 minuti a casa. Facciamo tutte le prove comparative. Sicuramente rispetto a quello grande, te l'ho detto già, quello là è un ricevitore professionale, una cosa particolare, e quello non, cioè all'ICR7000, che non è una cagata, che è un buon ricevitore, e i segnali che non riesce neanche a agganciarli all'ICR7000 lui li riceve perfetti, chiari e puliti. Li ho fatti vedere a un paio di amici, compreso Sergio e Riccardino, le frequenze molto molto delicate da ricevere. L'ICR7000, una riesce con l'attenuatore a tirarla appena appena fuori, diciamo radio 1-2, però l'altro radio 5 è perfetta, senza niente, senza mettere il preamplificatore né antenna. Se metti il preamplificatore né antenna, guai. Poi c'è una radio che è quella impossibile, quella sfido a chiunque a riceverla, quella radio lì, perché anche quello là c'è un po' di difficoltà a tirarla fuori, si va attaccare il preamplificatore e antenna, perché è molto vicino a un'altra, è molto, a parte sensibile, molto selettivo, perché quando sono segnali troppo sensibile ci vuole anche la selettività dell'apparato, perché se sono segnali vicini adiacenti e non sei selettivo non fai niente, e questo riesce a tirarti fuori quel segnale che sono rimasto a bocca aperta. Stiamo parlando tutto l'anno d'inverno, non d'estate quando ci sono condizioni atmosferiche favorevoli, parliamo quando c'è umidità, che è molto difficile. Ti faccio sentire come esce questo con il PL e l'antenna a 10 centimetri. Però le prove non è solo sull'FM, vanno fatte, Riccardi, perché nelle bande bloccate più o meno tiri fuori tutto, bisogna vedere anche altre cose. Ok, vabbè, comunque scusatemi, una decina, 15 minuti vado in carica, che sennò si mangiano tutto, poi manco il buffet, spassano tutto, non c'è più niente da mangiare, no, poi... Quindi vado a mangiare e ci sentiamo, arrivo subito. Ciao Fabio, ciao Roberto, spero di riascoltarvi più tardi. Veloce che si mangiano il polpettone. Buona carica, vai Fabio. Ciao Riccardo, buona carica. Ah, tra l'altro, fammi la cortesia di portare i saluti a mamma, perché quella fine in un attimo ci siamo già, siamo andati e io non sono andato a salutarla, ok? Ehi, faccio salutare a tutti. Va bene, a dopo, dai. Break. E chi è entrato quando sto uscendo? Buonasera a todos! Vai a mangiare, Riccardi, che poi già resto qua. È la buruta. Va. E dove sei? Dentro il Luna Park già, mi ha buruto. E che buruto tu, beh? C'è nessuno. Mica, tranne i messaggi che arrivano, vabbè. Se mi ha detto un coso, una fettatrice, ne... C'è la ventola accesa dell'alimentatore, te la spengo, guarda. Guarda se siete la burutto, dai, tutti e due li intendi, i gosi, guarda adesso a vedere se ce n'è la burutto. Mamma mia, c'è questo ragazzo, roba, mamma mia. Mettiti un po' di cotone, diventa normale. No, era un bel foto perché stavamo parlando modulatori normali, tranquilli, è stato io, sono sta vento là sotto e poi c'è stato di colpo giallo, che cos'è? No, era la ventola, roba, ma devo attaccarlo al riventatore se vogliono le luci accese degli strumenti e tutto quanto. No, ma c'era un bel forte di radio, per quello ho detto, e poi c'era tutta questa roba attaccata. Eravamo con la modulazione bassa, c'avevo il volume, io ce l'ho, lo tengo a uno il volume, ma tanto l'ho messo quasi a due, poi sei entrato tu, ma è che sono stato il timpani. Perché io servo per tenere sveglia la gente, tu per far addormentare. Questo questo era un complimento, mi Gianni. Vabbè, sta uscendo la cane, ma la radio neanche si sentiva. Ah, la faccia, io sono in cuffia a casa, ti sento una bomba, roba, cosa dirai a uno? No, il volume di ascolto sto parlando. Scala da 1 a 10, io ce l'ho 1 e mezzo, poco fa ero a 2, l'ho messo 1 e mezzo e mi stai già facendo sordo a 1 e mezzo il volume del coso, dell'apparecchio. Cavagava, già va bene, così voglio io, di far diventare sordi a tutti. L'eco com'è? Poco poco si sente, già va bene. E così deve sentirsi, non lo voglio io alto alto. Già lo so, il mio parere, non te lo dico perché poi qualcuno si offende. Ehi, vabbè, lo conosco il tuo parere, inutile, non mi offendo io. Lo so che non ti piace, ma è sempre una questione di gusti e io sono ho questa prerogativa di uscire con l'eco, mi piace quello, ma l'avete fatto tutto un bel di volte, adesso lo lascio, perché mi piace così. Mi piace l'eco! Gianni, conta che anche stamattina che prendevamo il caffè e sentivo l'eco quando parlavi. Perché ce l'ho incorporato? Ti immaginavo con l'eco, pensa a tu. Te lo sogni la notte. Ehi, il fantasma dell'eco di Gianni. Ma io qualche volta è capitato di andare nel canale 45 dove ci sono gli avanti di tutti questi tripli, quadrupli, modulatori con tutti questi effetti. C'era uno che aveva quest'eco, dopo che chiudeva la portata stava mezz'ora ripetendo don don don don don don 10 secondi stava ripetendo. E a capo qualcuno ho sparato così da Dio, proprio attento, attento, attento. L'amico, Ico, Ico, sul canale, Ale, così, capito, cioè, per riuscire a sentirsi, a capirsi, ci lasciamo lo spazio dell'eco, se no non si capivano le parole una sull'altra, allucinante. Sì, ripetizioni allucinanti, che poi per dire tre parole ci pieghi un quarto d'ora. Che fai? È un discorso secondo com'è, poi li passa già la falcone. Va bene che non è caso di Gianni, dai, che c'è un leggero riverberino sotto. Beh, una radio bella profonda, potente, va bene. Aspetta che forse c'è Eugenio che sta gridando. Eugenio, tu sì. Isumi! Di uscita siamo, Eugenio. Pagappa, dai. Ti sentiamo bello forte di radio, dai. Che microfono stai usando, Eugenio? Già va bene, dai. Poi c'è tu che urli. Cavolo. Ti ho sentito sotto Roberto, figurati. E oggi mi hai sovramodulato addirittura. No, sotto l'ho sentito, però sentivo le urla. E ho capito che era lui. E oggi ti grazie la moto quando ti trovo a te. Dai, oggi mi hai sentito, non so se ascolti a Fabio, vediamo un po', Fabio, l'hai ascoltato oggi? Purtroppo no ragazzi, salutatelo. Ah, tu cosa stavi copiando stasera? A casa di Alessio ieri? O Fabio? No, già, abbiamo fatto uno scherzo, era da ricattino. Ah, che tempo che arrivi in voce e tu esci sulla bomba? Questo ha fatto qualche miracolo. Ricattino gli ha fatto, dai, dai, entra, entra con la tua voce, chiedi un controllo, perché il pezzo non ti sei messo l'antenna. Ma no, dai, Ricattino, dai, e vabbè, dai, facciamo lo scherzo, là. E mi ti rispondono, facciamo due radio 5, e ti sei messo l'antenna. Ah, sì, anche tu in radio, ti hai sentito? Beh, mi sei vado a fondo scala, che antenna hai messo? E lui è entrato e ha detto, devo fare complimenti a Fabio che sta uscendo molto bene, ringraziando. Riccardino se l'ha pensata, ma guarda tu sto bambino, eh? Ma infatti sembrava troppo strano, cioè con questo poco tempo, che ti piazzavi l'antenna. poi di sera. Infatti, quello che ho pensato io, ho detto che tardi sera l'ho piazzata, boh, almeno che ci sono da presto. Vado a fare da voi al cliente, non è che sto un mese a pensarci, no? Capito? Solo che qui c'è questo casino e allora me la prendo con calma e vediamo di fare le cose bene, bene bene. Sì, vabbè, va, da fare, queste cose si fanno di mattino, va. Poi se un'antenna da niente, allora sì, ma se un'antenna impegnativa la mattina, ti ruba tutta la mattina. Sì, per l'antenna è una la mattina e una la sera.